Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Buona fede alla prova della sfiducia in aula, nessun condizionamento sul DAP e sulle riforme, chiede collaborazione. Renzi annuncia alla mozione votiamo no. I deficit dei paesi europei salgono, ma non ci sarà alcuna procedura di infrazione, lo assicura il vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Intanto l'Austria frena sugli aiuti, sono prestiti e andranno restituiti. Medio Oriente, leader palestinese Abu Mazen denuncia troppe annessioni in Cisgiordania e la fine degli accordi con Israele. Prendevano il reddito di cittadinanza ma erano boss dell'andrangheta calabrese, sospesi dalla Guardia di Finanza, oltre 100 assegni ad altrettanti pregiudicati. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24, che iniziamo dalla prova della mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro della Giustizia Bonafede, prova che attende tutto il governo anche per valutare la compattezza delle varie compagini. Da questo punto di vista c'è l'annuncio di Renzi questa mattina che ha detto che voteranno alla mozione, ma entriamo nel vivo del dibattito con gli interventi dell'opposizione e la difesa, l'autodifesa dello stesso Ministro della Giustizia con Elisabetta Fiorito. Ciao Betta. Sì Alessio, allora il governo regge, Italia Viva voterà contro le mozioni di sfiducia del centrodestra e di Più Europa. I renziani sono stati convinti dalla difesa del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che ha replicato in aula a Palazzo Madama le accuse delle opposizioni, quella sulla mancata nomina del PM antimafia Nino Di Matteo al DAP e sulle scarcerazioni facili per l'emergenza coronavirus. Allora sentiamo quanto ha detto Bonafede su Di Matteo. Ci furono condizionamenti? Ancora una volta, no. Chi lo sostiene se ne faccia una ragione. Non sono più disposto a tollerare alcuna allusione o ridicola illazione. Lo stesso dottor Di Matteo, tra l'altro, a proposito delle esternazioni dei boss, ha chiarito in un'intervista a Repubblica del 6 maggio 2020 che durante la prima telefonata, cito testualmente, il ministro si mostrò informato della questione. Mentre sulle scarcerazioni facili Bonafede ha replicato di aver tutelato la salute pubblica non solo di chi vive e lavora nelle carceri. Il guardasigilli ha poi lanciato la possibilità per le forze politiche di maggioranza di collaborare alla riforma del processo penale e a quella del CSM. Immediata la replica di Matteo Renzi, che ha parlato prima ricordando la gogna mediatica del Movimento 5 Stelle, ma poi ha annunciato il voto contrario alle mozioni di sfiducia. Allora sentiamo questo passaggio. Siccome noi partiamo dalla politica, nell'annunciare che voteremo contro le mozioni di sfiducia, riconosciamo al centrodestra e alla senatrice Bonino di aver posto dei temi veri. Occorre anche in dei momenti di difficoltà riconoscersi reciprocamente che la vostra mozione, che le vostre mozioni non erano strumentali. E ve lo dico dicendovi che non le voteremo. Non le voteremo per motivi politici. Ecco allora quindi che adesso c'è attesa per il voto che dovrebbe esserci fra poco in aula, ma ricordiamo il governo dovrebbe reggere perché Italia Viva voterà contro le mozioni. A te Alessio. Grazie Elisabetta, e quando ci sarà il voto torneremo a collegarci eventualmente con te per sapere l'esito di questa voto sulla mozione di sfiducia nei confronti di Bonafede. Voltiamo pagina adesso. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto rilancio, adesso tutte le misure comprese nel pacchetto da 55 miliardi per il rilancio dell'economia sono nero su bianco, ma emergono anche delle criticità che riguardano per esempio i professionisti. Da oggi è possibile chiedere i 1.200 euro del bonus babysitter e in 2-3 giorni arriveranno i 600 euro per 4 milioni di lavoratori autonomi, e quanto prevede il decreto rilancio da 55 miliardi pubblicato ieri in Gazzetta. Previsti il rinnovo della cassa integrazione per 9 settimane, il divieto di licenziamento per altri 3 mesi, contributi a fondo perduto per le piccole imprese e prestiti garantiti per le più grandi. Arrivano reddito di emergenza, bonus colf e badanti ed ecobonus, salgono a 150 milioni i fondi per le scuole paritarie, grandi esclusi dal contributo a fondo perduto, i professionisti iscritti agli ordini, scelta inaccettabile, ci spiega Marina Calderone, presidente consulenti del lavoro e comitato unitario professioni. Il CUP, la rete e tutti gli ordini professionali non lasceranno la situazione in questi termini e chiedono al governo un immediato intervento riparatore. coinvolti oltre 2 milioni di professionisti tra avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, infermieri, assistenti sociali e così via. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E invece allarghiamo lo sguardo all'Europa, perché dopo la proposta Merkel-Macron di un piano di aiuti da 500 miliardi agli stati in difficoltà per l'emergenza coronavirus, interviene l'Austria in rappresentanza dei paesi frugali, contrari ad allargare i cordoni. I fondi elargiti andranno restituiti, ha detto la ministra per gli affari europei austriaca. Sempre oggi la Commissione europea ha chiarito, tramite il vicepresidente Dombrovskis, che nonostante i deficit dei paesi stiano salendo, non ci saranno procedure di infrazione. Ancora alto il numero di casi di coronavirus nel mondo, negli Stati Uniti 1500 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i casi complessivi negli Stati Uniti sono oltre 1.500.000. Un nuovo importante avanzamento della pandemia riguarda anche il Brasile, con 1.179 morti nell'ultimo giorno. Veniamo invece all'andamento dei dati in Italia. Cautela nel terzo giorno di aperture in tutta Italia, ma si guarda anche ai prossimi passi. Abbiamo vinto la prima battaglia con il virus e rimesso il paese in sicurezza, sottolinea il ministro degli affari regionali Francesco Boccia in audizione alla Commissione Federalismo Fiscale della Camera. Siamo partiti da un R con zero che viaggiava tra 3,5 e 4 con punte di 4,2 e 4,3 nelle aree più critiche del paese. Ci siamo rimessi in cammino con lo 0,4, 0,5, 0,6. Ora dobbiamo difendere questi numeri e dobbiamo farlo sapendo che questo è il patrimonio maggiore. Intanto, secondo gli ultimi dati sul fronte coronavirus, sono 813 nuovi contagi, di cui oltre il 50% in Lombardia, dove risalgono. In precedenza l'incremento era stato di 451 unità. I ristoranti sul lungomare di Napoli si preparano alla riapertura di giovedì. Antonio Sergio, proprietario del Gambrinus. Domani mattina alle 8 entrerà il primo cliente da noi. Siamo stati troppo messi sotto con questo pandemonio. A Milano aprono i locali, pochi clienti, molti controlli, va meglio per bar e ristoranti, male per tutto ciò che è legato alla scuola. Ci abbiamo i plexiglass, chiediamo se sono congiunti, com'è la situazione. I bambini che non vanno a scuola li vedo lo stesso. Noi abbiamo smesso di lavorare con la scuola da febbraio e quindi si sente, non lo recupereremo mai più. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Saranno ripristinati a partire dal 2 giugno i voli all'Italia da e per New York, ma anche verso la Spagna, così come i collegamenti tra Milano e Roma, e poi i voli verso il sud Italia, che torneranno ad avere una frequenza maggiore. Lo annuncia la compagnia aerea, specificando che i voli a giugno saranno il 36% in più rispetto al mese di maggio. Con la cronaca ci spostiamo in Calabria. Più di 100 tra boss e gregari dell''ndrangheta avevano richiesto e riscosso il reddito di cittadinanza. Si tratta di persone anche pluricondannate che erano riuscite a entrare nei programmi di assistenza. Solo grazie ai controlli della Guardia di Finanza è stato possibile interrompere l'erogazione di denaro. Ci sono esponenti di spicco delle più note famiglie di 'ndrangheta del Reggino, come i Tegano, i Serraino, i Commis, i Figlio Meni o i Cordì, tra i percettori del reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza ne ha individuati ben 101, a dimostrazione che la criminalità non rinuncia a nessun possibile guadagno, perfino ai figli di Roberto Pannunzi, uno dei più grandi broker mondiali di cocaina, che si vantava di pesare i soldi anziché contarli, figurano tra i percettori. Uno di loro, Alessandro, sposato con la figlia di uno dei maggiori produttori colombiani di cocaina, è stato anche condannato in via definitiva per traffico di droga. Oltre ai 101 indebiti percettori, denunciate altre 15 persone che hanno sottoscritto le richieste irregolari. L'INPS adesso revocherà i benefici e recupererà le somme elargite, che ammontano a più di mezzo milione di euro. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E invece nella zona di Campobasso c'è stata una vasta operazione antidroga, sentiamo. Alle prime luci dell'alba è iniziata l'operazione antidroga della Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso. 39 le misure cautelari nei confronti di altrettante persone che facevano parte di tre organizzazioni criminali che trafficavano in sostanze stupefacenti fra la Campania, la Puglia, la Calabria e il Molise, sequestrati beni per oltre 1 milione di euro. A capo delle organizzazioni c'era un pregiudicato napoletano che è al vertice di un'associazione di stampo camorristico campana. Rimpiegava i proventi illeciti della droga in attività commerciali in provincia di Campobasso. L'operazione ha visto impiegati oltre 250 carabinieri e finanzieri in 61 perquisizioni che sono state portate avanti in abitazioni private e in uffici. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo all'estero, in Medio Oriente. Il leader palestinese Abu Mazen ha annunciato la fine degli accordi con Israele, ciò a causa delle intenzioni israeliane sulla annessione di parte della Cisgiordania. È la fine degli accordi tra OLP, Israele e USA, l'ha dichiarato il presidente palestinese Abu Mazen. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e lo Stato della Palestina, ha detto, si sentono svincolati da oggi da tutte le intese con i governi americano e israeliano e dai relativi obblighi, compresi quelli sulla sicurezza. L'annuncio al termine di una riunione di emergenza della leadership palestinese a Ramallah in risposta ai piani israeliani di annettere parti della Cisgiordania, come previsto dal nuovo governo di emergenza nazionale di Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, sulla scia del piano di pace del presidente Donald Trump. Fabiana Magri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus con però una buona notizia. Si è conclusa infatti positivamente la prima fase di sperimentazione su oltre 500 volontari del candidato vaccino anti-Covid messo a punto dallo Jenner Institute e l'Oxford University con la partnership, come sapete, di un'azienda italiana, la Advent IRBM di Pomezia. Sono 118, proprio come il numero dell'emergenza, i prototipi di vaccino prodotti nel mondo contro il Covid-19 già in fase di sperimentazione, ma solo 8 candidati lo sono già sull'uomo. E come spiega l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, una delle super 8 ricerche è quella sviluppata dallo Jenner Institute dell'Università di Oxford in collaborazione con l'azienda italiana Advent IRBM di Pomezia. La prima fase di sperimentazione su 510 volontari di questo candidato vaccino anti-Covid si è conclusa positivamente. I volontari vaccinati, secondo il presidente dell'azienda di Pomezia, Pietro Di Lorenzo, stanno bene e partirà a giorni la fase successiva, l'ultima, di sperimentazione su circa 3.000 volontari che si concluderà a fine settembre. Se tutto andrà bene, a dicembre saranno disponibili i primi ingenti quantitativi di dosi. Quanto ai farmaci antivirali, secondo il vice direttore dell'OMS Ranieri Guerra, sono una cinquantina i trial, ma ancora con evidenze di efficacia limitata di fronte ad un virus subdolo che non riguarda soltanto l'apparato respiratorio, ma è sistemico e può colpire anche a livello neurologico o cardiovascolare. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13 minuti, facciamo una piccola pausa con Effetto Giorno, torniamo tra pochissimo, ripartiremo dall'allarme per il rialzo dei prezzi, ne parleremo con un'associazione di consumatori e anche di cosa fare con i biglietti dei concerti della stagione estiva che sono andati tutti annullati. Poi con la Guardia di Finanza della Calabria, com'è possibile che persone condannate abbiano potuto ricevere un sussidio di, come reddito di cittadinanza. Non ci sono database, non ci sono archivi, non ci sono controlli incrociati con la polizia. Questo accadeva in Calabria, oltre 100 persone. Poi dalle 13:30, ve lo anticipo, stress da fase 2, tutte le nuove incombenze nel mondo del lavoro che ci sono nei negozi ma anche nelle aziende, dalle distanze alle barriere, ai gel sanificanti, eccetera. Quanto ci stressano? 349-238-6666, tra poco. Queste le notizie di oggi. Il ministro della giustizia Bonafede alla prova del voto di sfiducia in aula. Governo al riparo perché Renzi annuncia votiamo no. Aiuti europei, l'Austria frena. I fondi sono prestiti e andranno restituiti. Dal 2 giugno l'Italia riprende i collegamenti con New York e la Spagna, così come i voli Milano, Roma e verso il sud Italia. Prendevano il reddito di cittadinanza ma erano boss dell''ndrangheta, sospesi dalla Guardia di Finanza oltre 100 assegni. Minuti, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, come anticipato, parliamo della questione prezzi, allarme per il rialzo dei prezzi di molti beni, dai bar ai ristoranti, ma anche parrucchieri, insomma tutti i negozi che sono riaperti in questi giorni, ci sono segnalazioni di un rialzo dei prezzi che potrebbe fare una ulteriore selezione all'ingresso, su chi diciamo riesce poi a permettersi in una fase di crisi come questa, dal taglio dei capelli alla cena al ristorante. Ne parliamo con Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Benvenuto, buongiorno. Eccoci qui, buongiorno a voi. Con cui, tra l'altro, lo anticipo, parleremo invece anche della questione della stagione dei concerti che è andata annullata e quindi cosa fare con i biglietti. Ieri l'annuncio, concerti dell'estate annullati, cosa fare, rimborsi, voucher, eccetera. Partiamo però da questa questione dei prezzi, Dona, perché alcuni, diciamo, dalla cronaca di questi giorni, no, quello che si è saputo, dalle dichiarazioni stesse dei negozianti, alcuni hanno detto effettivamente sì, chiediamo alle persone un contributo per gestire i maggiori costi dovuti alla nuova situazione, alla sanificazione, eccetera. Altri invece negano che ci siano aumenti, altri magari avevano in mente già di farlo, ma come dire, hanno colto l'occasione per fare un ritocco dei prezzi. Voi intanto avete ricevuto delle segnalazioni di consumatori per degli aumenti anomali o cose di questo genere? Allora, i consumatori ci stanno segnalando modalità anomale per presentare questi aumenti e in particolare, ad esempio, il caso di chi fa pagare una sorta di tassa di accesso al negozio giustificandola in forza delle modifiche all'infrastruttura che ha dovuto fare o alla riduzione dei tavoli di un ristorante. Il punto è quindi, come sempre quando parliamo di prezzi, la trasparenza, cioè il prezzo deve essere comunicato in modo leggibile al consumatore. Penso a quegli esercizi che sono tenuti a esporre dei listini, abbiamo detto dei bar, dei ristoranti, ma vale anche per i parrucchieri, i barbieri. Questa tassa di accesso è anche difficilmente giustificabile da un punto di vista fiscale. Quello che ci stanno dicendo i consumatori è che invece apprezzano molto quel commerciante che appunto in grande trasparenza afferma la necessità di dover ritoccare i prezzi, lo fa in modo chiaro, senza sotterfugi, e devo dire c'è una solidarietà tra consumatori ed esercenti che questo, è anche nuova. Questo effettivamente potrebbe essere anche una chiave, no? Però Dona, non c'è il rischio che poi questi aumenti possano, diciamo, rimanere anche un domani quando magari questi costi in più non ci saranno? Forse adesso la butto lì, la tassa per la sanificazione no, ma anche un banale contributo, no? Diciamo proprio a fondo perduto, spiccioli, monetine, per questi costi, diciamo come dire, un costo che in questo momento il consumatore, come diceva giustamente lei, mette in conto, però che poi magari un domani non vorrebbe ritrovarsi, diciamo, aumentato in tariffa, come dire, di default. Questa è la nostra preoccupazione e anche molti consumatori già prefigurano questo scenario, cioè che il prezzo poi si sedimenti così com'è e non venga revisionato al ribasso. Qui però si gioca anche una partita importante nel rapporto fiduciario tra negoziante e consumatori. Quelli che saranno bravi, non appena le misure si allenteranno, a dare dei segnali anche di rientro, è sempre molto difficile, gli economisti parlano di viscosità del prezzo per dire che il prezzo aumenta molto rapidamente e poi a scendere invece fa sempre molto fatica. Non c'è dubbio, e la storia ce lo dimostra, che tutti questi eventi epocali, per fortuna mai di questa gravità, ma hanno lasciato un segno e ce lo certificherà l'Istat come sempre in termini di aumenti stabili dei prezzi. Il consumatore ha però un'arma, quella di scegliere. Oggi tutti noi abbiamo voglia di fare la nostra prima cena al ristorante o la prima pista fuori, ma subito dopo sarà il momento di scegliere tra operatori onesti e quelli disonesti. Senta Dona, a proposito di quello che sta dicendo lei, tutti abbiamo voglia, molti hanno voglia, ma forse non proprio tutti di fare una cena finalmente al ristorante, perché stando a un recente sondaggio di ieri c'è un 60% degli italiani che ha detto che entro la fine di quest'anno andrà di meno comunque diciamo a ristorante, a cena fuori, e in questi primi giorni molti dicono che proprio non ci andranno. Questo, diciamo, è comprensibile per i primi giorni, ma poi attendere, sembra che ci sia un po' di paura. Le voglio chiedere se si tratta di timori secondo lei legittimi, oppure anche che cosa si potrebbe fare per ovviare questa paura e far ripartire non solo l'attività economica ma anche la vita sociale delle persone. Allora, intanto dico che tra quello che si risponde a un sondaggio e quello che poi si fa nella realtà c'è sempre una certa forbice, una certa differenza. I dati dei primi giorni delle presenze nei ristoranti si confermano che insomma è vero che i posti sono ridotti rispetto alla normale capacità, ma che insomma gli italiani hanno questa voglia di ricominciare. Piuttosto dal punto di vista della tutela dei consumatori, il punto è che cosa mi viene venduto. Penso soprattutto alle vacanze o ai concerti, tema cui lei ha accennato. È chiaro che un biglietto per una vacanza, per una certa località o anche per assistere ad un evento acquistato all'inizio dell'anno, oggi non mi dà in cambio la stessa esperienza, no? Si parla molto dell'acquisto anche di un'esperienza, chiaramente quel prezzo è il prezzo per la convivialità, per la situazione anche di gruppo, che ovviamente oggi non è replicabile. Allora il punto è quali diritti ha il consumatore rispetto a un servizio che non è più lo stesso. Vale un po' meno se vogliamo per i bar, per gli esercenti diciamo di strada, ma pensiamo a questo tipo di servizi, è chiaro che un tour operator, perché lì siamo ancora più preoccupati sull'aumento dei prezzi, che mi faccia addirittura pagare di più quel pacchetto per sì, offrirmi un'esperienza diversa, perché un po' meno di vacanza, passi il termine, un po' meno rilassata di quanto non sarebbe stata senza tutta questa emergenza, forse mi sta diciamo così offrendo ancora meno di quanto io lo stia pagando. Senta Dona, la questione che dicevamo anche in apertura dell'annullamento di tutti questi concerti per la stagione estiva, perché gli organizzatori hanno preso atto che date le norme attuali sul divieto, sì, esatto, di assembramento, non è possibile fare nessun tipo di questi concerti. Ci sono, se ho capito bene, fino a 3 milioni di biglietti venduti. Cosa possono fare queste persone per quanto riguarda il rimborso o il voucher? Questi meccanismi come funzionano? Sono garantiti per tutti? Allora, è una storia molto triste quella della legislazione d'emergenza in materia di concerti, perché se abbiamo tollerato e anche un po' a fatica la previsione di un rimborso tramite voucher nella materia turistica, anche perché parliamo di un settore insomma molto importante per la nostra economia, non si spiega onestamente perché il legislatore abbia avuto questa attenzione anche nei confronti dell'industria dei concerti, anche attenzione che è diventata una compressione dei diritti dei consumatori. Ricordiamo che oggi il consumatore deve rivolgersi non al venditore, quindi alla libreria, alla piattaforma dove ha comprato il biglietto, ma all'organizzatore, che potrebbe essere una piattaforma straniera, quindi con grandissime difficoltà per recuperare i propri soldi. Ma poi si stanno mettendo del loro anche gli organizzatori, perché magari ci dessero almeno i voucher. Cosa fanno? Dicono no, l'evento non è annullato, ma è rinviato. Il punto è che è rinviato, direbbero gli avvocati, sine die, cioè senza una data alla quale io sono certo che parteciperò, è rinviata al 2021, totale incertezza, devo dire anche da parte degli artisti, saremmo aspettati che sui siti qualche informazione in più, un po' più di vicinanza alle persone che nei mesi scorsi hanno comprato i biglietti, invece nulla di tutto questo, incertezza totale. Nella migliore delle ipotesi, noi consigliamo, richiedete un rimborso, nella migliore delle ipotesi ci verrà restituito un voucher, almeno abbiamo la speranza di avere un credito, anche se poi quell'operatore potrebbe fallire di qui a fra un anno, non ce lo auguriamo, ma è un'eventualità da tenere in considerazione. Certo, se questo accadesse, addio soldi del biglietto, è chiaro. Carta straccia. L'Europa si è espressa molto severamente sui voucher turistici contro il governo italiano. Io credo che quelli in materia di concerti sono davvero un modo per usare la liquidità dei consumatori come ammortizzatore sociale, ma è chiaro che sono famiglie che magari non riescono ad andare al supermercato a pagare le bollette, rientrerebbero volentieri dei 300 euro pagati per 5 persone per andare ad un concerto che non si svolgerà sicuramente quest'anno, e come le dicevo prima comunque si svolgerà con un altro clima e con un'altra esperienza. L'investimento eventualmente fatto in altri tempi adesso sicuramente non sarebbe diciamo fattibile con la stessa leggerezza. Insomma, può sembrare un tema minore. Io intanto ringrazio Massimiliano Dona per essere stato con noi dell'Unione Consumatori, Nazionale Consumatori. Può sembrare un tema minore quello dei concerti, però insomma, non è così in questa fase, perché come diceva giustamente Dona, cioè, il piccolo investimento fatto per andare a un concerto che adesso potrebbe servire magari per andare a fare la spesa, o comunque in assenza di certezza che questo investimento possa rientrare, non è accettabile. Insomma, c'è molto da fare anche sul fronte dei voucher per quanto riguarda i concerti, e poi c'è anche il tema delle vacanze. Ci fermiamo qua per quanto riguarda questo aspetto invece, e torniamo a parlare di scuola che abbiamo detto quasi tutti i giorni durante tutte le puntate è l'unica assente dalla fase 2, non c'è ancora un piano, non ci sono ancora date a parte per gli esami di maturità e di terza media. E in questo caso parliamo con Cristina Carpinelli di un tema ancora più doloroso, che è quello della scuola per i bambini con disabilità, che richiedono insegnanti di sostegno, un aiuto particolare. Per loro le lezioni a distanza non funzionano, le famiglie segnalano che sono state un grosso problema in questa fase. Cosa si sta pensando per loro? Il diritto all'educazione non può essere compromesso dalla disabilità. Il problema si è posto con una certa prepotenza nei giorni del lockdown e sta continuando in questi giorni di scuola a distanza. Nella prima fase dell'emergenza le famiglie con studenti disabili si sono sentite molto sole. Ce lo confermano le associazioni presenti sul territorio. Queste, alcune delle voci raccolte. È stata un'esperienza disastrosa. Ed è un timore reale che ci sia un'esclusione totale, cioè si perdano quei diritti conquistati negli anni. Una carenza generalizzata per quanto riguarda l'assistenza specialistica, mancata del tutto. La vera questione ora è come affrontare il ritorno a scuola a settembre per gli oltre 260.000 studenti con disabilità. Cosa si pensa di fare in prospettiva e cosa hanno chiesto le associazioni al Ministero dell'Istruzione? Martina Fuga di Cordown ha partecipato alla trattativa. Sì, la riapertura a settembre prevede delle tornazioni, gli alunni con disabilità potessero avere una presenza costante a scuola, questo per favorire al massimo, oltre che la didattica, anche la socializzazione. L'altro elemento importante è quello di definire gli organici del personale docente di sostegno già nel periodo estivo. Un'altra delle nostre proposte è che alla ripresa della scuola si potesse lavorare anche nella modalità di didattica a distanza, qualora dovesse continuare, in piccoli gruppi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco noi il capitano Giorgio Silvestri, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Locri. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. E grazie per aver accettato il nostro invito, comandante. Allora, abbiamo già dato la notizia nella prima parte di Effetto Giorno. C'erano oltre 100 tra boss e gregari dell''ndrangheta calabrese che prendevano il reddito di cittadinanza, con un danno erariale per lo Stato di alcune centinaia di migliaia di euro, perché chiaramente non erano nelle condizioni di poter prendere questo sussidio. Ora le chiedo, comandante, ci racconta com'è andata, perché che ci possa essere qualcuno che fa il furbo, naturalmente lo sappiamo, lo immaginiamo, e questo fa parte anche dei normali controlli, ma che dei condannati, pluricondannati, potessero accedere a questi sussidi ha dell'incredibile, o no? Diciamo che l'attività è nata approfondendo la situazione di quei soggetti che erano gravati, come lei ha ricordato, da pesanti condanne passate in giudicato per reati riferibili all'associazione di stampo mafioso, l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e quindi abbiamo approfondito la situazione di questi soggetti, andando a riscontrare appunto che ben 101 di questi percepivano in maniera illecita i redditi di cittadinanza. Sì. Tutto, diciamo, tra le varie irregolarità riscontrate appunto sono quelle di aver omesso nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni da presentare all'INPS, appunto l'esistenza di questa condanna. Di queste condanne, certo. Perché è un requisito per far decadere naturalmente i requisiti a loro volta per ottenere il sussidio. Ma come è stato possibile che gli elargitori del reddito di cittadinanza, cioè gli operatori dei comuni, gli assistenti sociali, non abbiano potuto effettuare un controllo incrociato, non ci sono dei database, e queste persone poi erano libere di muoversi liberamente o hanno mandato dei prestanome? Come è successo? La domanda del reddito di cittadinanza va presentata o tramite il patronato, tramite sistema telematico, anche sfruttando il servizio offerto dalle Poste Italiane. E loro hanno solamente omesso di indicare nella richiesta, nella domanda da presentare, appunto questo fatto di ricadere in quelle casistiche in cui è prevista la decadenza del beneficio. Quindi non erano stati convocati, non erano stati convocati per nessun tipo di colloquio per quanto riguarda la firma del patto per il lavoro, la ricerca, eccetera, eccetera. No, perché il momento in cui viene presentata la richiesta del reddito di cittadinanza non è prevista la convocazione da parte di nessun cittadino. Quindi il cittadino fa la richiesta autocertificando i dati richiesti appunto dall'INPS e successivamente viene erogato in base. Diciamo quindi che questo, quello che avete scoperto voi, scoperchiato voi grazie a queste inchieste meritevoli, tra l'altro credo che abbiate fatto risparmiare allo Stato mi pare fino a 500.000 euro, qualcosa del genere, sì. Se ho capito bene, potrebbe capitare, sta capitando tranquillamente ovunque. Sì, sono casi che purtroppo possono capitare, si possono verificare. Comandante Silvestri, grazie per essere stato. Se voleva aggiungere qualcosa in chiusura, sì? No, volevo dire che comunque sia il fatto che ci siano questi controlli a posteriori, certo. Fa sì che appunto nelle situazioni più critiche vengano riscontrate, sì, irregolarità, e quindi si procede con la sospensione. Assolutamente, il vostro lavoro è da questo punto di vista è esemplare. C'è da chiedersi se non sarebbe meglio, diciamo, fare un filtro iniziale all'ingresso piuttosto che poi spendere delle risorse umane, insomma organizzative, come quella della Guardia di Finanza, per fare un controllo su questo, cioè assegnato un sussidio al reddito a un pluricondannato per la 'Ndrangheta. Insomma, va bene. Queste le notizie di oggi. Il ministro della giustizia Bonafede alla prova della sfiducia in aula, governo al riparo perché Renzi annuncia votiamo no. Aiuti europei, l'Austria frena, i fondi sono prestiti e andranno restituiti. Dal 2 giugno l'Italia riprende i collegamenti con New York e la Spagna, così come i voli Milano-Roma e verso il sud Italia. Medio Oriente, il leader palestinese Abu Mazen denuncia troppe annessioni in Cisgiordania e la fine degli accordi con Israele. Prendevano il reddito di cittadinanza ma erano boss della 'Ndrangheta, sospesi dalla Guardia di Finanza oltre 100 assegni. 13:36 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666. A proposito dell'intervista con il comandante della Guardia di Finanza di Locri sul tema dei controlli sul reddito di cittadinanza, vedo che qualcuno commenta negativamente che ho detto un comportamento esemplare, insomma quello della Guardia di Finanza. Ma assolutamente no, scrive un'ascoltatrice. Poi un altro dice: ma non c'era la galera perché avesse fatto false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, eccetera. Non bisogna prendersela però con la Guardia di Finanza, perché i controlli che fanno loro sono invece molto efficaci in questo caso, perché hanno svelato una vera e propria truffa, almeno in 100 casi. Il problema è aver deciso, un sistema che ha deciso di affidare un reddito a delle persone senza fargli un colloquio dal vivo nemmeno una volta, e qui poi possono nascere tutti gli equivoci, per essere diciamo leggeri, o anche le truffe del caso. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. La velocità è tutto in questa guerra alla pandemia. Il virus si è propagato in modo quasi istantaneo e ha lasciato il mondo in balia della sua impreparazione. Il governo italiano di decreti ne ha già fatti 5. Il decreto del resto è la forma più rapida di legislazione e più immediata ancora è il DPCM, strumento con cui Conte ha gestito le fasi del lockdown. Bene, i 5 decreti avevano bisogno di 53 atti per tradurre le norme in pratica. Ma di questi solo il 28% sono andati a buon fine. Il resto attende. E ora arriva la prova più grande, il decreto rilancio. I 266 articoli che stanziano una montagna di denaro, 55 miliardi che ne mobilitano fino a 155. È approdato finalmente alla Gazzetta Ufficiale, ma avrà bisogno di 98 provvedimenti attuativi. Solo per l'erogazione dei contributi a fondo perduto per le imprese ne sono previsti 18. Tutti ancora da mettere nero su bianco. Per cassa integrazione in deroga e per la famosa sanatoria del lavoro irregolare in agricoltura, i provvedimenti da varare saranno 10. Insomma, la conclusione è che è più facile fare un annuncio istantaneo come il virus piuttosto che tradurlo in atti concreti. È normale, ma la gente prima o poi si scoccia. Allora, fase 2, che stress, è quello di cui parliamo adesso con Maria Martello, che buongiorno intanto, benvenuta. Buongiorno. Lei è una formatrice, una psicologa, una scrittrice, si occupa di mediazione per la risoluzione dei conflitti, specialmente in ambito lavorativo. Insomma, l'ambito lavorativo è, diciamo, quello che è il cuore un po' della fase 2, no? Perché finalmente abbiamo allentato anche dal punto di vista psicologico, dottoressa Martello, il lockdown, insomma, la chiusura, il fatto di essere in quarantena, abbiamo recuperato la nostra libertà. È chiaro, però c'è un po' di paura, un po' di prudenza, giusta anche, e però adesso c'è tutto un tema di incombenze, di barriere che ci dividono, di distanza, di incarichi più in più anche nel mondo del lavoro. E come stiamo affrontando, anche dalle segnalazioni che le ha nell'ambito della sua attività, questa ripartenza, questa fase 2? Quanto ci sta stressando effettivamente? Certo, certo. L'ambito lavorativo. Abbiamo un problema con la dottoressa Martello, vediamo se la recuperiamo. È caduta la linea, aveva appena iniziato a rispondere, però vedo dalla regia che il collegamento ci dovrebbe essere ancora. Vediamo un po' se ce l'abbiamo, così ci aiuta a decifrare questi primi segnali che arrivano dal mondo del lavoro, difficoltà che poi possono esplodere anche in problemi di relazioni vere e proprie, in conflitti. Ce l'abbiamo di nuovo? Eccola, sì. Eccola. Allora prego, riprenda ecco. Pure. Le dicevo che sicuramente l'ambito lavorativo va inquadrato all'interno dell'ambito personale, delle relazioni interpersonali. E il mondo lavorativo è uno dei più complessi perché ci sono relazioni verticali tra pari, eccetera. E le difficoltà sono tante, gliene posso raccontare una proprio di questo momento. Sì. Una donna, madre sì. di due figli, persona sì. correttissima, serissima, ingegnere gestionale di una delle primarie aziende italiane, quindi non parliamo neanche di situazioni approssimative peregrine, il meglio della professionalità, il meglio di un'azienda. Mm-hmm. L'ingegnere ritorna sul posto di lavoro sì. portando la sua mascherina, i suoi guanti, entra in azienda, le misurano la temperatura, le sostituiscono la sua mascherina sì. con una fornita dall'azienda, quindi regolamentare e al top. L'ingegnere inizia a lavorare e nel corso della mattina più e più volte osserva questa scena, che nell'ambito dell'azienda sì. figure impiegatizie di vario livello si toglievano i dispositivi di sicurezza, salvo rimetterli appena passava il controllo. Cioè, diciamo, un atteggiamento puramente difensivo anziché di responsabilità sull'uso dei dispositivi. Formale. E questo ha mandato, ha creato preoccupazioni in questa sua conoscente, in questo ingegnere? Cioè il fatto che le persone non si proteggessero? Sì, certo, ma non rivolto agli altri, rivolto alla propria persona, al fatto che la propria persona sì. Era interdipendente dalle scelte altrui e rischiava, pur avendo fatto la scelta, di essere corretta, meticolosa. Se posso sintetizzare un po', forse semplificando, però per vedere se ho capito e se gli ascoltatori hanno capito. La presa d'atto del fatto che non dipende tutto da noi, il fatto della nostra sicurezza, della nostra tranquillità. Voglio indossare la mascherina, ma se intorno c'è gente che non collabora, si rischia di rimanere, col cerino in mano di questa nuova. Bravissimo. Questo è il vissuto dell'ingegnere. Si è sentita sì? in pericolo. Perché certo non dipendeva tutto da lei e questo la metteva. Aumentava anche le paure. Senta, ma qual è la chiave invece per affrontare in maniera positiva, anche per uscire da questo tipo di paure che possono essere paralizzanti, perché altrimenti ci chiudiamo in casa, non usciamo più, non affrontiamo più la vita, invece dobbiamo comunque affrontarla anche se ci sono queste difficoltà, dal suo punto di vista, nell'ambito della sua esperienza? Certo, il primo punto è il rispetto, perché qui si tratta del rispetto di alcune regole, ma anche il rispetto della sensibilità altrui. E quindi in questo caso il rispetto del rigore di questa ingegnere che riteneva di volersi proteggere con la mascherina e voleva che la mascherina anche gli altri la tenessero. Ma anche il modo di porsi nei confronti degli altri, c'è una modalità corretta per che ne so, andare da un collega e chiedere effettivamente che venga utilizzato il dispositivo. Io credo che in questa fase ci sia accoglienza, perché siamo tutti un po' preoccupati poi alla fine. Perfetto. Allora, lei sta richiamando un principio utilissimo anche in questi momenti, che si chiama il principio della verità, cioè di saper dire che cosa si sta provando in quel determinato momento e saperlo fare senza ferire l'altro, perché facilmente l'altro che si sente stigmatizzato si offende, e questo significa iniziare a creare una rete di conflitti che poi si infittisce fino a rendere invivibili le relazioni aziendali. Assolutamente. Io la ringrazio per ora, dottoressa Maria Martello, grazie per essere stata con noi, insomma, per averci introdotto a qualche elemento di convivenza con lo stress da nuova fase lavorativa nel convivenza con il coronavirus.